Buonasera. No, mi facciamo ridere perché purtroppo ci piace così, insomma, suonare un po' in maniera dei brani tradizionali un po' particolari, qualcuno li conosce. Ok, questa è una storia, cominciamo con una storia un po' moderna, è un fatto di cronaca, realmente accaduto. Ok. E se ne andò via da casa sua, lo fece per amore, per un uomo che voleva avere prepotentemente lei. E dopo solo un anno adesso non c'è neanche più la voglia di cenare in casa in due. E non è sbagliato dire che ormai sia finita, che non ha più senso stare lì. Il ragazzo che ha comprato le sue scarpe non le ha messe più. Si perdono i ricordi, tutti meglio sono già morti mentre passano le 23. E adesso sta al telefono parlando con l'amica che non è più amica come crede lui. E sente che l'amore non ha sesso, non si può fermare. È quello che si chiama vivere, non a morire. Ma tanto lui non scappa via, perché al mondo cambia, per quella lei ci muore. Non saprà dire amore, ma non dirà di no. C'è un dildo che non muore e cresce tra le mani del ragazzo che è uno scandalo. C'è strada in confusione, non capisce cose che non va. La tipa in erezione, ma un messaggio dal telefono le dice non si fa così. E corre in bagno e piange, poi risponde non è quello, solo che non sa darti il cuore. Io non sarei quella che ti mette il fiore in testa, che d'amore ti farei morire. Ma dopo un'ora scappa via, persi al mondo che ha un'idea, per quella lei ci muore. Saprà dire amore e lo faranno un po', la incontrerà all'altare, lo leggi sul giornale, già destino, non si incontrano. Non ingoierò, sfora, si getta sulla scia di lei. La gelosia fa male, scagli pietre chi lo vuole, ma chi non conosce quel dolore non sa che lui ha cercato, che l'amore l'ha tradito, non capisce come può accadere. Che ormai non ha più testa, mentre lei si ferma e costa per comprare un fiore a chi l'ama davvero. E con il cuore in festa torna verso la sua macchina, ma accade un fatto strano. Un vecchio amico nel vederla la fa sedere, c'è il coltello in mano e sente solamente odio dentro sé. E trae la lama e poi le corre incontro, quella lei ci muore. Chissà cos'è l'amore, saprà dire no, si muore su un altare, è solo un sacrificio necessario per comprenderlo. Ok, grazie. Che adesso è un pezzone che sicuramente conoscete un po' tutti, lo cantava soprattutto la Ferri, ma l'hanno cantato in molte, e il pezzo è Te possino da tante cortellate. l'arciprete, per quante messe ha detto l'arciprete, per quante volte ha detto orate frate, la la la la la la la la la la la. Vorrebbe vedere a ponte impiccato, te vorrebbe vedere a ponte impiccato, con la testa mozzata e per panico. Serve bello mio che cerugate, non serve bello mio che cerugate, so cortellate quante ne volete. Facciamo un pezzo che aveva scritto Balzani molto molto tempo fa, chiaramente. Che pezzo facciamo? Ok, un pezzo che è contenuto in questa compilation che è uscita da pochi giorni con altre band neo-folk romane. È l'unico pezzo inedito, però è un pezzo molto molto vecchio. Il brano è un po' un inno alla romanità, se credo siate tutti per lo più romani, comunque residenti, quindi magari qualcuno di voi potrebbe conoscerlo. Il brano è questo, è Passione Romana. Ok, si può fare anche meglio, ecco, vai. Sulla strada del destino, senza un affetto, un bacio, una carezza, pigliava per l'unione un ragazzino con gli occhi belli e pieni di dolcezza. Lo proteggeva ogni trasteverino e lui cresceva pieno di bontà. Thank you. Si fece giovinotto a 18 anni, una straniera se lo portò via, scordandosi di tutto e dell'affanni, vivendo in mezzo al lusso e all'allegria. E lui nel cambia vita cambiò panni, ma il cuore suo romano non cambiò. Ma spesse volte ne trovasse solo, triste il pensiero suo spiccava il volo. Verso di Roma sua antica fiamma, verso di Roma sua che chi fu mamma. Era tutta rossa dal dispetto, gli offese Roma piena d'arpagia, ma lui glielo rispose chiaro e netto, chi offende Roma offende mamma mia. Tu sei signora ed io sono un poveretto, però sto cuore ricco più di te. Credi che chi c'ha l'oro sia un signore, l'oro per me non conta, conta il cuore. Tu sei signora e vivi in mezzo all'oro. Io preferisco vivere di lavoro, così tornò pentito al cupolone, scordando sé di tutto e lusso e amore. Scordando se da tutto il lusso e amore, perché un romano se venne il cuore. questa era per Romani. Vedo che vi ha preso molto e vi siete emozionati moltissimo su questo brano. Ok, noi possiamo anche chiudere e facciamo, lasciamo chiaramente spazio agli altri che fremono di battute, storie fantastiche e esilaranti che noi ci godremo insieme a voi. Chiudiamo con un brano che sicuramente avete cantato tutti in vita vostra, perché siete chiaramente tutti di Roma. E non fomento proprio quello proprio che schioppa proprio. Vabbè. Comunque il pezzo è un pezzo molto molto bello, voi lo conoscete. Ah, fa niente, perché è umido. Comunque. Ok, il brano lo conoscete tutti perché è Sin Nome Moro. In braccio a te mi scordo ogni dolore, fammi restare con te, Sin Nome Moro. Fammi restare con te, Sin Nome Moro. Amore mio, non piagni amore, non piagni e state zitta su sto cuore. Quello che mai da di, dimmelo pure. Quello che mai da di, dimmelo pure. Ci siamo autoconsigliati di fare un pezzo un po' sempre questo, un traditional che ci piace tanto. Il pezzo, anche questo sicuramente lo conoscete tutti, Non ricordo chi l'ha scritto, ma anche sti cazzi. Però vabbè, lo facciamo noi. Ok. Il brano è La Popolana. Lo sai quella che te Grazie mille. Ciao, grazie a tutti. Viva Onda Rossa.